È una carne piemontese, è una diciamo una razza piemontese molto conosciuta, molto nota e diciamo molto prelibata. Diciamo che quando c'è a Carrù la manifestazione del bue grasso, insomma, si mangiano battute a coltello a gogo, come si dice. Quindi, Davide, dicevo... devo chiederti subito una cosa, visto che tu sei un esperto e noi utilizziamo, vorremmo imparare a utilizzare i termini nella loro giusta accezione. Noi spesso parliamo di tartar, ma è la stessa cosa la tartar? È Oddio. Un sinonimo oppure è un tipo particolare? Mi chiarisci questo? Beh, la tartar delle volte non viene, diciamo, tagliata a coltello davanti, la tartar viene preparata, viene già preparata e quindi molte volte viene anche macinata, diciamo con un mezzo meccanico invece che col coltello, quindi sono due cose leggermente diverse, anche se vogliamo essere sottili, insomma la tartare è un qualcosa, è molto più battuta, diciamo finemente, la tartare rispetto alla carne cruda, diciamo di fassone battuta a coltello. Proprio questo discorso della battuta a coltello è proprio che dovrebbe essere fatta visivamente, cioè in presenza. Senti, Sandro Arrotino a Firenze ci scrive: ci vuole un'ottima affilatura, ricordatelo, è detto da un arrotino. Questo lui ha perfettamente ragione, perché in questo caso il coltello diventa fondamentale. E diciamo anche questo, che purtroppo degli arrotini in giro per l'Italia se ne vedono sempre meno, purtroppo. E devo dire che uno deve fare chilometri molte volte per andare a portare i coltelli ad affilare. Però per tornare alla nostra battuta, diciamo che ci sono anche non solo trattorie che fanno la carne cruda appunto battuta, ma ci sono anche dei grandi ristoratori che fanno delle battute molto particolari. Ad esempio il Cambio di Torino, che è un grandissimo ristorante, molto elegante, con una storia, fa una carne cruda con melanzane e con le melanzane, quindi la batte con... aggiunge delle melanzane e diventa quindi qualcosa di completamente diverso, perché non tutti amano mangiare la carne cruda. Oppure il grande Massimiliano Laimo delle Calandre di Padova, diciamo così, anche se è vicino a Padova, lui serve la carne cruda su una corteccia con delle salse, diverse salse, e invita a mangiarle con le mani, e ha perfettamente ragione, perché il tatto è anche fondamentale quando si mangiano certe cose. Allora voglio raccontare un aneddoto che mi è capitato. Un giorno sono capitato appunto da Laimo e lui mi ha detto: guarda che oggi ti faccio fare un esperimento, mettiti a sedere. Mi ha portato uno specchio, ho detto: mamma mia, come finisce qui? Mi ha dato due tappi da mettermi nelle orecchie e poi mi ha portato diciamo la carne cruda su una corteccia, con sotto c'erano una serie di salse, una diversa dall'altra, e mi ha detto: ora mangia, metti in bocca, guardati allo specchio, e quindi nel silenzio più assoluto, e controlla la tua masticazione. Ebbene, devo dire che mi sembrava una sciocchezza, mi sembrava, come io molte volte dico, dei coupe de foudre, di questi cuochi che vogliono fare gli originali. Sì, ogni tanto capita. No, capita spesso, non capita, raramente non capita, diciamo così. E allora ho scoperto che mentre ti guardi e mentre sei nel silenzio, tu segui la tua masticazione perfettamente. Quindi, come posso dire, il tuo mangiare è molto più lento, ma è anche molto più vissuto lentamente, perché ti segui, ti guardi allo specchio, guardi il tuo movimento nel silenzio, ascolti te stesso e ascolti il cibo. Quindi, secondo me, è veramente è stata una grande storia. Straordinario. Ciao Davide, noi ci risentiamo tra poco!